Sono stato convocato. Sono stato convocato. Che vuol dire che sei stato convocato? Ma come cosa vuol dire? Non ci vuoi andare? Dimmi che devo girare, io giro. No, devo andare. Se ti convocano, tu vai. Possiamo cominciare! Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Keeping me at a distance. All that I'm asking for is forgiveness. Are you even listening? Am I talking to myself again? Prova Bernardeschi! E se lo fa lui, un grandissimo regalo di compleanno. Altro che torta, altro che candeline. Il gol dell'1-0. Il gol dell'1-0. Sono soddisfatto ancora una volta della dimostrazione di spirito di questo gruppo, dei ragazzi che ci tengono tanto a fare bene, anche su tante difficoltà come abbiamo avuto oggi. La profondità per Dzeko, di prima per Nainggolan, dalla parte opposta c'è Salah, è andato ancora Dzeko dentro, eccolo il pallone, Dzeko col sinistro, 4-0! Siccome abbiamo questo rapporto un po' particolare con le partite in Europa, noi questo risultato spero che gli dia quella convinzione poi che ci voleva, che ne ha a che fare con una squadra forte e che anche quando poi è sopra di due gol deve giocare per far male, deve giocare per fare il terzo, per fare il quarto. Beh, un po' meglio, perché mi sta già imbestialendo David Guetta moscio per presentare la doppia vittoria in Europa. Non mi andava, già oggi è un casino perché c'è Pardo che ha appena saputo che c'era Capuano qui si in sta studio preparando. Ha messo giù il telefono perché ormai tra i due c'è una credine insostenibile, c'è una tensione insostenibile per questioni di schedina. È tornato Giorgio De Luca sano e salvo da Madrid, ve lo posso confermare, sta benissimo nonostante ha portato tre palloni in omaggio. Sì, è venuto con lo zaino pesante. Con lo zaino pesante, e questo sarà ovviamente uno degli argomenti di discussione. C'è Edoardo Lavezzari in redazione, Gianmarco Ferronato in regia. Tra l'altro uno dei pochi pro De Laurentiis, Giorgio De Luca, credo. Giorgio De Luca, se sei pro De Laurentiis? Male, eh? No, anche lui pro Sarri. Hai capito, vabbè, ma chi è pro De Laurentiis? Vi invito. Chi è pro De Laurentiis? 800 24 00 24. C'è qualcuno che difende i tuoni e fulmini di De Laurentiis su Sarri? Ne parleremo a lungo. Permettetemi il lirismo, per cui mi beccherò un sacco di insulti dopo i tuoni fulmini di Sarri e tra Sarri e De Laurentiis al Bernabeu. Ieri sono spuntati 5 meravigliosissimi raggi di sole che sono quelle delle squadre italiane in Europa League, una coppa che di solito vediamo col binocolo o in fotografia o in televisione in mano agli altri. Io quest'anno conterei che una delle italiane potesse farcela. Ieri la Roma con un Villarreal che mi diceva Giovanni sesto nel campionato, soprattutto una delle difese tedesco, migliori della Liga, il Villarreal, ha preso spagnolo, 4 fischi, 3 di cui di Dzeko, che si è portato via il pallone. Bellissima l'immagine di Dzeko con il pallone in mano alla faccia di chi diceva che era un paracarro, signori. Ne ha dove fatti siete? 28, 28 signori, voi tutti che l'anno scorso dicevate è un lampione della luce, eh? Dove siete? 800 24 00 24, numero verde. Meravigliosa la punizione di Bernardeschi, che neo 23enne, tra l'altro giorno dei compleanni che dopo il GR celebreremo perché c'è imminente quello di Baggio 50 anni. C'è stato quello di Valentino Rossi, 38, oggi è quello di Michael Jordan, 54 anni, nato 17 di febbraio. Allora, vuoi partire da questi meravigliosi raggi di sole? Guarda, secondo me si può partire da questo. Manchester United, forse l'Athletic Bilbao, il Tottenham se resta Tottenham dentro, magari lo Zenit San Pietroburgo. E dici poco. C'è qualcuno di questi che parte certamente più forte della Roma nella corsa all'Europa League? Io dico no, mai come questa volta Manchester c'è un'italiana, United, la Roma. Tripletta di Ibrahimovic. Ma sì, è vero, forte il Manchester United, però, però giocava anche una partita, insomma, sulla carta non complicatissima contro il Saint-Étienne. Poi è vero, il Manchester tra l'altro ha una motivazione in più, che difficilmente entrerà nelle prime quattro in Premier, quindi questa è la porticina per riuscire ad entrare nella prossima Champions. Però tutto questo per dire che, insomma, si è ragionato per due giorni che la caduta delle grandi spiana la strada alla Juventus verso Cardiff. Io vorrei invece ribaltare il discorso sull'Europa League. Ditemi voi quando recentemente l'Europa League è stata che il Bayern Monaco non sia poi caduto. No, però sai, perdi il Barcellona, perdi comunque l'Arsenal per strada, hai già una Champions che parte senza Chelsea, senza Manchester United. Avercelo questo Arsenal come avversario. Con un Manchester City che sta facendo fatica. Insomma, è un ragionamento che hanno fatto tanti. Però oggi parliamo di Europa League e io credo che veramente sia l'anno buono. Ho rimpianto che non hanno dato a Spalletti qualche arma in più, perché adesso siamo all'inizio di quel periodo delle 10 partite in 30 giorni, tra l'altro con 4-5 appuntamenti di quelli particolari. Perché le armi sono finite tutte nell'arsenale del Napoli, però De Laurentiis non le vede, si incazza come una bestia. Eh sì, deve essere per quello, deve essere per quello. E sono finite tutte lì le armi che la Roma non ha, sono finite nell'arsenale del Napoli, che però Sarri, guarda quel briccone, tiene chiuso a chiave. Qualcuno dice addirittura che si sia incontrato, me l'hai detto tu, io, ma sì, l'ha scritto il tempo. No, sennò ci prendiamo noi la querela di Sarri, no, al posto dei colleghi qualche giorno fa. Si è incontrato con qualcuno della Juventus. Sarri ha detto che non è vero, Sarri ha detto che non è vero, però chi vivrà, lo chiediamo a Crosetti. Ti sei dimenticato un sesto raggio di sole che mi è venuto in mente ieri sera vedendo Villarreal Roma, e cioè che il Milan non ha preso Musacchio. Tu sai che per tutta l'estate hai inseguito Musacchio, ora visto Musacchio ieri ridicolizzato da Dzeko, credo che non abbia fatto un pessimo affare. In compenso c'è un nuvolone tremendo ed è veramente pessimo, perché dicevo prima anche nel GR che più sfortuna di così si muore. Florenzi, qui facciamo tutti gli auguri più grandi del mondo, proprio ci alziamo in piedi per Alessandro Florenzi, che si è rotto di nuovo in allenamento il crociato appena operato. Dimmi tu se è una cosa plausibile. No, è davvero cercare un colpo basso. Rottura del neolegamento. Si è proprio letto rotto quello che gli avevano appena aggiustato. Guarda che stanno scrivendo, quelli che stanno con De Laurentiis. Però De Laurentiis tutta la vita. No, ma chiamate. La squadra 0-0 è sua. 24, può 0-0 e deve 0-0 dire 24. Tutto quello che vuole. Questo l'aveva detto Mourinho. Ti ricordi Mourinho che aveva detto ad Abramovic, cioè sulle parole, sulle critiche di Abramovic, il presidente, il capo non si discute, sto zitto di fronte alle critiche, ha ragione lui? L'aveva detto Mourinho, lo dicono in tanti, lo dice anche Galliani, che le parole di Berlusconi non si commentano ma semplicemente si ascoltano. Però la cosa sorprendente è che sono passati quanti giorni? 2-3 oramai dalla partita di Madrid, e il tema è rimasto questo. Adesso vediamo domenica pomeriggio poi che tipo di ripercussione ha anche sulla prestazione del Napoli. Vediamo che cosa succede da qui a qualche settimana. Non è una trasferta semplice quella del Napoli, perché storicamente il Chievo è un avversario che ha sempre tolto punti al Napoli. Ha detto: in campionato possiamo anche perdere punti, chi se ne cosa frega. Che non è vera. Poi se vuoi te la dico adesso, ti do una statistica. Cioè, la tesi di De Laurentiis è sbagliatissima. Che in campionato puoi anche perdere 2, 3, 4 partite, perché tanto hai tempo, lui dice, nelle 12 dopo di recuperarle, e fai sperimentazione, capisci se i nuovi acquisti vanno bene o no. Tanto per capirci, l'Inter dopo l'esonero di De Boer 13 partite, quindi è l'arco temporale che indica De Laurentiis, fatte bene, ha fatto 39 punti, ha fatto 33 punti in 13 partite, ha recuperato un punto alla Roma e zero punti al Napoli. Questo per dire che questo è un campionato dove si corre così tanto che se davvero De Laurentiis la pensa così, brindano quelli che stanno dietro. Allora, Pierluigi Pardo, sei in linea. Eccoci. Non t'accapigliare con Capuano, so che tra voi ormai c'è grande tensione. Non c'è tensione. C'è acredine, c'è una acredine che sfiora l'odio. Ho perso, l'altro giorno ho perso. Traffico, sì. E mi raccomando, Tutti convocati. Tutti convocati. Manca Agazzimma. La Gazzimma. Cos'è la Gazzimma? No. Non te lo voglio dire, quella è la Gazzimma. poteva essere molto meglio, ma la realtà è che mancano punti e dobbiamo migliorare questa cazzima, vogliamo migliorare un po' tutto. Tu ti servi degli altri solo per i fatti tuoi, vivi solamente per pensare ai casi tuoi. Come potrà mai un milanese capire una parola come a cazzima? Dice Milano ti è una cazzima. Ma che significa cazzima? Ma non dopo ti dicere che stia cazzima. E la cazzima, cazzima. Quello è stato un errore, abbiamo commesso, ma dal punto di vista della cazzimma per portare via il risultato ho visto qualcosa in più del solito. Già quando eri bambino t'azzuppavo rococò. Io credo che questa sera ai ragazzi sia mancata la cosiddetta cazzimma napoletana. L'unico che ha dimostrato di averla è proprio un napoletano che Insigne, che di intelligenza ha fatto un gol meraviglioso. Allora, parte Capuano, mi promettete di fare i buoni fino alla fine dell'ora? Assolutamente. Ma certo. Ah, va bene, ma certo non era convinto. Ma comunque, va bene. Certo, certo, no, certo, certo. Ah, va bene, ok. Pinocchio. Fino alla fine dell'ora la schedina. Maurizio Grosetti da Repubblica, ciao! Eccoci, buongiorno. Io non prometto niente. Tu non prometti, fai bene. Ma perché non devi fare la schedina? Perché non devi fare la schedina con Pardo e Capuano che si ammazzano di legnate. Tu invece oggi hai usato il bastone, il randello, quello pesante, non sei andato per lo 0-0. L'invadenza del padrone del vapore, dicendo cose carine, che condivido totalmente, su Aurelio De Laurentiis. Meglio che si dia al cinema, tanto è stato tutto cinema quello che ha fatto al Bernabeu nel dopo partita. Beh sì, parecchio cinema l'ha fatto, ma ha fatto un cinema che alla fine rischia di rovesciarsi addosso agli attori e anche agli spettatori, no? Di solito il cinema si fa per esaltare le doti degli attori e per far contenti gli spettatori, questo è per fare i soldi, perché un produttore lavora per quello. In questo caso mi sembra invece che questa pellicola, che pure non era neanche uscita male, un'interpretazione neorealista, e il Napoli ha fatto quello che ha potuto, un po' meno forse di quello che ha potuto, ma nulla è perduto per il ritorno. E poi vabbè, poi è successo quello che sappiamo tutti e che io credo fosse totalmente fuori luogo. Sì, non doveva accadere. Sì, non doveva accadere, è abbastanza incomprensibile, sono abbastanza incomprensibili queste frasi, come io e Pierluigi ieri, come abbiamo ragionato a lungo sulla opportunità anche della presenza di Maradona in spogliatoio. Questo forse è stato un errore strategico di Sarri, però adesso vi faccio sentire una frase di De Laurentiis e poi invito tutti e tre, Pardo, Crosetti e Capuano, a commentarla. Si cerca disperatamente di difendere le proprie posizioni, mentre invece la posizione unica che va difesa è quella della società, la società che rappresenta una bandiera, che rappresenta i tifosi, e quindi i tifosi mica sono stupidi. Se io perdo due o tre partite, ma capisco se posso contare su certi giocatori o non posso contarci, e quello è fondamentale, perché altrimenti io arriverò alla fine del campionato dove i nuovi acquisti non avranno mai giocato e non saprò per quale motivo io ho investito quelle cifre che avrei potuto probabilmente investire su altri. Allora, parto da Pierluigi. Secondo te questo vuol dire che Sarri sta lavorando per i fatti suoi? Questo vuol dire, e ormai è chiaro, che il rapporto non è idilliaco. Vuol dire anche che De Laurentiis, come dicevamo ieri, è uno di quei presidenti alla Berlusconi che se hanno un'idea che gli passa per la testa non hanno, diciamo, paura o incontinenza verbale. Conservativo. Sì, conservativo verbale, dovuto al fatto che è un uomo abituato a parlare con tutti, è un uomo di mondo, cioè non è di per sé una cosa sbagliata. Però sicuramente può fare danni. L'altro giorno, secondo me, ha fatto danni. De Laurentiis, per me, rimane un grande presidente. Bisogna sempre ricordare il punto di partenza di una società e quello che è oggi il Napoli. Oggi il Napoli è una superpotenza del calcio europeo, o quantomeno si sta avvicinando a quella dimensione. Però l'altro giorno ha commesso un errore. Quanto al turnover, sicuramente Sarri non è il re del turnover, sicuramente Sarri non è uno che ha un'abitudine scientifica nella rotazione dei giocatori ed è uno abbastanza conservatore. è diverso da Allegri da questo punto di vista. Vi ricordo che quell'Allegri lasciato in panchina contro quell'Higuain, lasciato in panchina contro la Juve lo scorso anno, un po' di polemiche per qualche panchina di Dybala, però lui fa un discorso a 25, Sarri fa un discorso a 16. Sì, però giocare al piccolo chimico, come scrive Maurizio Crosetti, a Madrid sarebbe stata la peggiore delle follie. Ma infatti, però De Laurentiis si dice: non è che devi giocare al piccolo chimico a Madrid. De Laurentiis si dice: dovevi fare esperimenti prima. Però il punto è che poi però sistemi, cioè non è che Pavoletti risolveva o Rog risolveva. Cioè, adesso dai. Però Pier, il punto che abbiamo ascoltato va oltre, perché poi sulla critica ognuno può decidere se Sarri è o no un campione del turnover, se Pavoletti deve giocare e quanto deve essere affrettato il ritorno di Milik. Secondo me quello che dice De Laurentiis va oltre, perché è una valutazione sul rapporto di fiducia che c'è. Cioè, se tu dici di un tuo collaboratore importante, qui c'è chi difende la propria posizione e non fa fondamentalmente il bene della società. Andiamo oltre alla semplice critica su una scelta di formazione o sulla scelta di una serie di formazioni. Certo. Maurizio, sei d'accordo? Sì, sono d'accordissimo. È una stupidaggine chiedere all'allenatore di far vedere quanto valgono i giocatori al presidente dopo Real Madrid-Napoli. È ovvio che non intendeva quello. Mi dice Pierluigi, De Laurentiis vorrebbe vedere più giocatori per capire anche se ha buttato via i soldi e come li può, riguadagnare in parte nelle cessioni quest'estate. Però tutto questo non poteva essere detto l'altra sera, non c'entra nulla. E poi c'è un'altra osservazione che è clamorosamente fuori registro: nel momento in cui De Laurentiis dice di non aver visto tutta questa differenza di qualità tra Real Madrid e Napoli, mi fa venire proprio dei forti dubbi sulla sua comprensione del calcio. Scusate se lo dico, ma è così, perché no, non è possibile. Ma non è possibile avere dei dubbi sulla differenza di qualità, e non è neanche possibile pensare che questa differenza di qualità l'avrebbero colmata in parte Rog o Pavoletti. È una stupidaggine incredibile. No, l'abbiamo detto ieri, Pier, no? La differenza, ad esempio, leggendo la composizione del centrocampo, è evidente: da una parte hai Kroos, Modric e Casemiro, sono giocatori di livello mondiale e che hanno giocato mille di queste partite. Ce l'abbiamo anche noi in questo momento al telefono, ma a parte le battute, non c'è discussione. Infatti, secondo me, l'altro giorno si è vista la superiorità. Poi, sicuramente il Napoli poteva fare una partita migliore. Io credo che Sarri, nella sua analisi in conferenza stampa, al netto della polemica con De Laurentiis, abbia detto cose assolutamente perfette, condivisibili. Cioè, ci aspettavo qualcosa di più dalla squadra, tutti ci aspettavamo qualcosa in più. Forse eravamo anche qualche modo condizionati da questo clima, da tutto questo cinema che è stato fatto attorno alla partita. Ma voi vi aspettavate davvero qualcosa di più dal Napoli? Cioè, io non riesco a capire cosa si potesse pretendere di più dal Napoli che tornare da Madrid con comunque qualificazione ancora aperto. Il risultato è bugiardo. Ma sai, è bugiardo, va bene. Cosa vuoi fare? Vuoi dare un gol in più? Il Real ne poteva fare 4? Io non so quante squadre vanno a Madrid creando 3 occasioni nitide come ha fatto il Napoli. In una ha segnato, Mertens ha tirato fuori. Beh, insomma. In una notte di Champions, quella in cui il Real entra con la faccia quella cattiva, Allora, non ti sto parlando della routine della Liga. Bravo, lì volevo arrivare. Maurizio Crosetti, oggi sulla stampa spagnola, me lo segnalava sempre Capuano, che legge tutti i giornali spagnoli ogni giorno, dalle prime ore del mattino, dalle primissime luci dell'alba. Si dedicano in elogi sperticati della squadra di Sarri, per come sono si è comportata. Abbastanza contenti di quello che hanno visto. Ma a me soprattutto ha sorpreso il Real Madrid, che ha preparato perfettamente la partita sul Napoli, ritagliandola addosso al Napoli. Si sono fatti un mazzo così, hanno corso tantissimo, e questo è il miglior complimento che tu puoi fare a una squadra come il Napoli. Significa rispetto, no? Ed è anche la prova che il signor Zidane, con la sua lunga e importantissima esperienza italiana, ha capito tante cose dello stare in campo, l'umiltà del sapersi adattare o comunque modellare per certi versi all'avversario anche quando tu sei il Real Madrid e di là c'è il Napoli o chi che sia. E quindi io penso che questo racconti anche l'evoluzione di un allenatore, chi che sia, non so. I due laterali del Real Madrid. Secondo me alla fine è intelligenza tattica sapere che l'avversario ti costringe a fare delle cose anziché altre, altrimenti sei un dogmatico. E quindi secondo me questo Zidane lo sa, e non è un caso secondo me che sia stato poi lui a fare quello che nessuno pensava. Invece cioè, Sarri definitiva... è stato accusato di essere un dogmatico. Ma Sarri è uno che ha un'idea di calcio precisa, che ha i titolari e le riserve come si usava una volta, che sta di non avere grandi alternative e che gli, come dire, ha creato un Napoli diverso quando è mancato Milik, cioè un Napoli senza centravanti come era Higuain e come era Milik. Nel momento in cui questo schema con i tre piccoletti ha funzionato, anche lui sa che adesso diventa difficile tornare a quell'altro Napoli, e insomma fa quello che può, ma io credo che lo faccia quasi sempre benissimo. Grazie Maurizio. Grazie a voi, ciao. Ti abbraccio. Ciao. Ciao. Noi ci fermiamo per la borsa, poi torniamo. Fate bravi, state calmi. La schedina dopo. 1X. Tutti convocati. Ascolto Gianluca perché sei solo chiacchiere distintive. Perché non lo si può vedere. Perché è uno specchio deformante. Fa ridere ma fa anche riflettere. Ascolto Gianluca perché... mutano le case, mutano le cose, mutano le mele da Renetta deliziose, muta questa vita, ma ancora in cosa non si sa. Melog, ogni giorno a domande inedite ricevo risposte autentiche. Melog, cronache meridiane di Gianluca Nicoletti, dal lunedì al venerdì alle 12 su Radio 24. Fineco, la banca che semplifica la banca. Vi presento. Tutti convocati. Dunque, signori miei, Pardo e Capuano, abbiamo due ascoltatori, Alfredo da Bologna e Massimo da Bergamo, che mi hanno detto vogliono difendere Aurelio De Laurentiis. C'è anche Marco, che ha mandato un SMS. Marco, ce ne sono un sacco di WhatsApp, eccetera. Ora, non ripartiamo dalla stagione in cui prese il Napoli, che non aveva le magliette. Rimaniamo sull'attualità. Alfredo, buongiorno. Buongiorno a voi. Senta, io chiamo perché appunto, come diceva lei, sono a favore di quello che ha detto presidente De Laurentiis, perché secondo me De Laurentiis, che non è affatto uno stupido, vedendo la qualità del Real, sa che effettivamente non può competere. L'unica possibilità che ha il Napoli per poter vincere è quelli che facciano qualcosa di incredibile, perché calcisticamente è impossibile la partita, e lui ha cercato di svegliarla in questo modo. Ha visto la realtà del Napoli, del Madrid, società del Madrid, ha visto la qualità e ha capito che non c'è partita. Lui intelligentemente cerca di svegliare nell'unico modo che può. Quindi si arrabbia perché alla fine dei 90 minuti il Napoli torna a Napoli con la qualificazione aperta. Ma non è aperta perché è capace che Real Madrid e Napoli Ma sicuro, il calcio è fatto così. Cosa deve fare Napoli? Pierluigi? Cioè, onestamente più di no, così. Deve fare una partita perfetta. No, l'altra sera al Bernabeu, l'ascoltatore dice... Si è accorto, cerca di svegliarli così. Sì, io penso che il Napoli abbia fatto una partita, ti ripeto, un pochino deludente. Non perfetta. Non perfetta, però non ha fatto neanche una partita disastrosa. Ha avuto una partita che ha vissuto di varie fasi, c'è stato un buon inizio, al di là del fatto che il Real ha avuto una palla gol dopo 22 secondi, non va dimenticato. Poi c'è stata una prima fase molto positiva, poi si è ballato tanto, c'è stato un finale secondo me dignitoso che lascia ben sperare. Però insomma, si è vista la distanza tra queste due squadre. Ma esiste, cioè è reale. Esiste, è reale, più forte del Napoli. E al ritorno ci vorrà un'impresa, ci vorrà una partita perfetta da un lato e una partita molto paga dall'altro. Detto questo, il risultato è giocabile. Il risultato dell'andata è un risultato giocabile. L'1-3, a parte questa tradizione del Real che 4 volte su 6 è uscito dopo aver vinto 3-1 l'andata. Quindi questo qualcosa comunque in qualche modo vuol dire. No, solo statisticamente qualcosa vuol dire questo no? Sì. Anche quindi, che 8 delle ultime 9 volte contro un italiano è andata fuori. Sì, però la non era quella dell'anno scorso con la Roma. Sì, esatto. Però poi, un'altra partita fatta di episodi, se ti ricordi, Pier, sui 180 minuti con il Real superiore, ma fatta di mille storie e di mille episodi. Magari è così anche al ritorno. Appunto per questo ti dico che non è, secondo me, poi così assurdo il fatto che il Napoli abbia avuto tre palle gol me ne aspettavo e speravo anche che ce ne fosse qualcuna in più. Io penso che sia stato, insomma, è quello che è stato. Ci sono due gol di distanza fra queste due squadre, potevano essere tre, fortunatamente sono due, poteva anche girare la partita dopo il gol del Napoli, ma è mancata la forza di approfittarne. Adesso ci sarà la gara di ritorno. In ogni caso, io all'uscita di De Laurentiis la contesto per un motivo fondamentale, perché non serve a niente. Cioè, sì, non è un'uscita, sì, che, sì, è sì, un'uscita sì, che non è produttiva dall'esterno. E lo dico ribadendo il fatto che secondo me, per siccome poi uno non deve giudicare il giorno, De Laurentiis per me è un grande presidente, sta facendo grandi cose, la società è cresciuta tanto e se sta lì al Bernabeu il merito è anche in larga parte, assolutamente, in massima parte del presidente. Assolutamente. Però questa uscita qui per me è una debolezza, così come per Sarri. È un regolamento di conti, Pier, è un regolamento di conti. Questa cosa qui è un regolamento di conti. Provo a fare questa roba qui, così come per Sarri, secondo me la gestione del turnover è un piccolo punto debole, che in certe circostanze può diventare faticoso, non certamente al Bernabeu. Per De Laurentiis certe uscite verbali, secondo me sbagliate, sono un piccolo punto debole di una presidenza che secondo me è una grande presidenza, vista nel suo complesso. Voglio sentire Ciccio Graziani sull'argomento. Ciao Ciccio. Ciao Carlo, ciao Pier. Ciao. Ma allora noi abbiamo di fronte un presidente che un giorno arriverà a farsi a fare il produttore, a fare il regista, a fare l'attore protagonista, l'attore non protagonista e il giocatore e quant'altro. È questo il presidente De Laurentiis, ragazzi. Lui quando non parlano di lui è geloso e comunque anche pur mettendoci la faccia in maniera negativa come ha fatto in questa circostanza contro il proprio allenatore, che tra l'altro non ha nessuna colpa, anzi è un allenatore che andrebbe ringraziato per quello che sta facendo, per il bel gioco del Napoli, per l'applicazione e quant'altro, si permette dopo una partita persa 3-1, e attenzione, non voglio essere frainteso, ma quel 3-1 dà ancora una grande speranza al Napoli calcisticamente parlando, perché se avessero concretizzato il Madrid, pur non giocando secondo me una grandissima partita, perché il Madrid gioca molto meglio, perché Cristiano Ronaldo a fine partita, se ero Florentino Perez, andavo lì e dicevo: senti, dammi 150 euro. Dice: perché? Perché tu la partita oggi l'hai guardata, non l'hai giocata. E poi e anche a James Rodriguez gli dicevo: anche tu paghi, tu paghi un pochino di meno. 85 euro. A te ti faccio 80 euro, ma paghi anche ti faccio tu. Ridotto, ti faccio ridotto. A James Rodriguez un ridotto. Però De Laurentiis avrebbe dovuto andare giù negli spogliatoi, ringraziare l'allenatore dicendogli: abbiamo fatto quello che potevamo fare, forse potevamo fare qualcosa di più, ma siamo stati comunque anche fortunati, perché anche loro potevano fare qualcosa di più, e ce la giocheremo a ritorno tutti assieme, tutti uniti. Invece cosa fa questo? Pur di andare a finire sui giornali dice tutto il contrario di quello che doveva dire. Ma purtroppo De Laurentiis noi lo conosciamo come fa. Quindi secondo te è una questione di gelosia? Attenzione, secondo me, una storia di gelosia. Secondo me sì, perché lui quando va sui giornali, quando rilascia delle dichiarazioni, ma lo vedete, ma lui De Niro farebbe brutta figura in confronto a lui se dovesse recitare come recita lui. Lui sarebbe è l'attore perfetto per fare quello che fa. Poi ha ragione Pier quando dice che se il Napoli a questi livelli, se il Napoli ha i bilanci giusti, se il Napoli è competitivo e quant'altro, questo è un grande merito del presidente, anche se anche qui apro una piccola parentesi: a livello di settore giovanile il Napoli è dietro moltissime squadre, anche lì non investono niente, investono poco, anche lì dovrebbe migliorare il presidente. Ci sono anche problemi di strutture. Ma volevo capire da Ciccio, ma dentro uno spogliatoio che tipo di reazione c'è? Perché a leggere le parole, insomma, Reina, che poi è una delle voci più importanti di quello spogliatoio, ha fatto capire chiaramente che non è stato apprezzato quello che ha detto De Laurentiis. Ma il rischio cos'è? Cioè, alla fine può esserci un effetto benefico, si stringono tutti intorno a Sarri, sicuramente sì. Oppure può essere defragante? Sì. No, sicuramente sì. In questo momento la squadra è con Sarri, tutti insieme stanno lavorando per raggiungere gli obiettivi più importanti e per fare il meglio che si può, e le parole del presidente sicuramente sotto certi aspetti hanno anche un effetto benefico, perché cementano ancora di più la compattezza di un gruppo negli spogliatoi. Ci si guarda in faccia e dice: siamo noi, lasciamolo perdere lui, perché lui ogni tanto ha di queste uscite che ci lasciano essere fatti, ma noi siamo qui, siamo consapevoli, anzi se riusciamo a fare l'impresa è uno schiaffo in faccia che gli possiamo regalare a questa persona, perché non si sta comportando bene né con il nostro allenatore e neanche con noi, perché anche lui ha detto: soltanto un giocatore ci ha messo la cazzim, e guarda caso è un napoletano. E allora gli altri hanno detto: ma come, ma che stai dicendo? Di che sono io? È fuori da ogni logica quello che ha fatto. Purtroppo nella vita si può anche sbagliare, spero che questo errore lo capisca e si comporti da presidente vero, serio, come giusto che sia. Posso approfittare, Ciccio Graziani, per fargli un'altra domanda? Vai. Io volevo sapere da Ciccio se gli è mai capitato di farsi fare il discorso motivazionale a 10 minuti dalla partita da una vecchia gloria che non c'entrava nulla con quella squadra, nel senso che è uno che non vive con quella squadra. È un argomento caro a Pardo, no, che io condivido totalmente. Io l'ho detto in una trasmissione proprio a Napoli il giorno della partita, che io avrei fatto parlare Diego prima, 3 ore e mezza prima, che io faccio la disamina alla squadra. Se fossi stato io in Sarri avrei detto: parla Diego Maradona, benissimo, sono felicissimo, fatelo venire alle 6, quando io faccio alle 5:30, che faccio la disamina, prima di parlare alla squadra di tattica, di comportamento e di formazione, viene Diego, dice 2 o 3 cose importanti, 5 minuti, 10 minuti, quello che vuole. Dopodiché, da quel momento in poi, la squadra la devo avere in mano io, solo io, soltanto io ci devo essere, i miei collaboratori. E d'accordissimo. Mentre andiamo sul pullman, mentre entriamo al Bernabeu, mentre si cambiano, mentre si chiacchiera, ecco, fare entrare Diego 10 minuti prima che inizia la partita, perché può avere una sua valenza, ci mancherebbe. Pierluigi, ma non l'ha evocato lui? No, io sono d'accordo, ma è difficile, perché poi tutto questo si lega alla sensibilità di un allenatore, quindi io spero solo che questa cosa Sarri l'abbia voluta, che sia stata la sua idea e non che l'abbia subita, perché se l'ha subita è grave per la società e grave anche per lui. Cioè, se questa cosa lui l'ha subita da sempre dal solito noto, dalla società. Dalla voglia di fare questa cosa che non è una cosa brutta, non è che è come dice Ciccio, cioè che Maradona dia una carica ulteriore alla squadra, ci sta. Che Maradona dica a questi ragazzi che rappresentano Napoli dall'alto della sua grandezza e può essere solo positivo, ma nello spogliatoio del Bernabeu, cioè quelli sono momenti sacri. Io penso che Maradona calciatore con la fascia di capitano del Napoli, dell'Argentina, avrebbe cacciato a calci il Maradona di turno il Sivori che veniva lì a fare il discorso motivazionale. Un'ultima cosa, Ciccio Graziani, poi lo salutiamo. Io voglio da te una battuta su Dzeko, che l'anno scorso la stragrande maggioranza del popolo del calcio definiva, soprattutto i tifosi della Roma, un paracarro e un palo della luce. Ma avevano ragione, perché come avevano ragione? Il Dzeko dell'anno scorso per le qualità, le potenzialità che lui aveva, era un controsenso. Quando saltava ma non è che questo è suo fratello, è sempre lui. No, lo so che questo non è suo fratello, ma lui che cosa? Lui ha patito molto probabilmente tante cose che noi non sappiamo, e credo che la cura di Luciano, che se l'è presa a cuore, anche perché noi la Roma quest'anno pensava che se arrivava un'offerta giusta, molto probabilmente tanti si pensava che potesse addirittura andare via Dzeko dalla squadra. È stato Spalletti che si è imposto, ha detto: io su questo ragazzo ci metto la mano sul fuoco. Io sono convinto che Luciano l'ha preso da una parte, gli ha detto: ascoltami Dzeko, io per te mi faccio bruciare, però tu mi devi dare retta a quello che io ti dico. Se tu vuoi ritornare ad essere un calciatore importante, perché tu hai le qualità, hai la forza, hai tutto, io credo ciecamente in te, ma devi fare quello che ti dico, devi ascoltare bene i miei consigli. E lui avrà detto alla società: signori, fidatevi di me, Dzeko è un giocatore che ci farà la differenza. Penso che sia andata così, perché dall'anno scorso a quest'anno lui, pur essendo la stessa persona, ha cambiato completamente bene. Si è messo a fare gol come mai aveva fatto nella sua carriera. Poi vedremo, poi, se l'anno prossimo. E poi comincia a farli anche belli. Ma vi ricordate l'anno scorso, il primo anno che lui era a Roma, quando si vinse la seconda partita, la prima partita con la Juventus a Roma, all'inizio proprio della stagione, mi sembra fosse la seconda giornata di campionato, a un certo punto arrivò questo cross, lui fece, a Chiellini disse: ragazzo, mettiti un attimo da una parte, ora faccio gol, dopo si discute. A Chiellini. Allora io dissi: questo è il centravanti della Roma. La Roma dopo tantissimi anni ha ritrovato un centravanti vero. E poi vediamo. Ci siamo accorti che si è perso per strada. Si è perso oggi per strada. Vediamo poi se l'anno prossimo Dzeko rimane alla Roma e soprattutto se Spalletti rimane alla Roma. Di entrambe le cose non sono poi così convinto. Grazie Ciccio Graziani. Ciao, un abbraccio a tutti voi. Ciao traffico. Buon Ciro e Massimo, state lì. Tutti convocati. Convocati. Amica mia, quanto costa una bugia, un dolore che dividiamo in due tra noi. La gelosia, quando arriva non va più via, col silenzio tu mi rispondi che, col tuo pianto tu mi rispondi che, coi tuoi occhi tu mi rispondi che lo sai. Ragazzi, rapidissimi nel trovarmi Adriano Celentano, gelosia, perché Graziani ha detto che da questo casino successo nel dopo partita è in fondo una questione di gelosia. A me è venuto in mente subito Bobby Solo, non so se a te parlo, ma noi abbiamo una certa età, cioè io ho una certa età. Gelosia mi prende e mi uccide, assurda malattia. Gelosia. Massimo, buongiorno. Intanto complimenti per la trasmissione, io grazie. Vi ascolto sempre e con grandissima attenzione, una delle poche trasmissioni sportive che ascolto, perché veramente non se ne può sempre. Perché secondo me De Laurentiis ha perfettamente ragione. Io sono napoletano, tifosissimo del Napoli, però sono una persona abbastanza capace di tirare due somme. Allora, praticamente siamo con un piede fuori dalla Champions. Siamo nella Coppa Italia a dover confrontarci con la Juve, che tradizionalmente è ostica, e siamo sideralmente lontani dal campionato. Ci sono delle zone d'ombra nella gestione di Sarri per quanto riguarda giocatori come i giovani, Desi, il fratello di Insigne, Gabbiadini. Tutto questo gran clamore e questa grande voglia di perdonare Sarri per questo gran gioco che esprime. Se però questo gioco poi non porta a vincere, amici miei, a me non piace, preferisco vincere. Che è un dogma, ma... che è un... no, chiedo sì, scusa, finito. Sì, a questo prego, punto, sì. Io sono il presidente della società. È vero che la forma è sostanza, è vero che in quella circostanza avrei dovuto soprassedere, però se mi faccio due conti, a me del Real Madrid così forte non mi è piaciuto invece i milioni di passaggi sbagliati dal Napoli. Non si dice che Koulibaly è arrivato decotto dalla Coppa d'Africa e abbiamo Maximovic pagato 25 milioni in panchina. Allora, prima di esaltare gli altri, che sono fortissimi senza dubbio, voi contate i passaggi che hanno sbagliato, gente come Zielinski, che è fortissimo, però si sono bloccati. Che tra l'altro è uno di quelli nuovi, quindi se vogliamo è uno dei colpi d'ala di Sarri. Che l'ha lanciato, perché se lo sta meritando. Anche di Avarà. Non ho capito. Anche di Avarà. No, dico, cioè, sì, hai citato Zielinski. Allora, Zielinski credo sia l'ultimo dei problemi di De Laurentiis. Per dire che ieri, quando il Napoli ha giocato male. Male. E allora, perché è una squadra che i meccanismi se l'ha collaudati, chi è il responsabile dell'impatto? L'allenatore. Secondo me l'allenatore. C'è anche un avversario, magari il Real Madrid. Allora, io ti dico, io penso che Napoli, se arriva terzo in campionato, non è che fa un risultato clamoroso, perché Napoli, secondo me, vale qualcosina in più, quantomeno vale una lotta per il secondo posto. Quindi, se arriva dietro alla Roma, diciamo, delle due, sicuramente. Io le vedo appaiate da un punto di vista tecnico, quindi quella che arriva davanti fa bene, quella che arriva dietro fa un pochino meno bene. E sulla Coppa Italia, insomma, sì, c'è la Juve, certo, ma perché Napoli è geniale, fino a questo momento ha fatto tutto quello che doveva fare. Io sono d'accordo sul fatto che Sarri ha qualche limite di gestione, però il bilancio mi sembra complessivamente positivo, a meno che non si pensi che questa squadra doveva dominare il campionato, e secondo me questa squadra è meno forte della Juve. Quindi il fatto che abbia una distanza dalla Juve sta, potrebbe esserci qualche punto in meno, sì, perché si è fatto male Niri, che all'inizio Sarri ha faticato parecchio, non è riuscito a trovare una quadra. Questa quadra alla fine l'ha trovata con Mertens. È chiaro che Gabbiadini non l'ha trattato bene, è chiaro che con Gabbiadini non ha dato il suo massimo, però è anche vero che non ha dato il massimo con Gabbiadini, ma nel frattempo è esploso Mertens. Esatto. Per cui, cioè, uno può anche parlare di Desi o di Lorenzo Insigne, però se questi qui non giocano è perché giocano altri, e se questi altri giocano bene alla fine pochi se ne frega. Questa è un po' certo, la mia. Certo, ma oggi, oggi, quanto vale, oggi quanto vale Martens? Quanto vale anch'io, ma tutti qua, sì, ma tutti quanti, ma quanto vale oggi Martens? Ragazzi, apriamo la gabbia dei leoni. Ricordando che conduco 4-3. Così. Ma lui fa l'annoiato a settimane alterne, capito? Ma sì, ma che sarà mai 4-3? Io dai, comincio, tu... io comincio perché non perché ti voglio male, perché ce l'ho davanti. Io comincio da Sampdoria Cagliari che si gioca domenica alle 15, Pierluigi. Chi comincia? Tu. Uno anche per me, dai. Meno male, va. Sulla Sampdoria si sbagliamo in due. Juventus Palermo invece è stasera. Dai, 1-1. Aspetta che ci penso un attimo. Perché ci pensi? Uno. C'è una battuta, una battuta. Atalanta Crotone. Uno. Dico uno anch'io. Empoli Lazio. Io dico due. Sì, anch'io. Te l'avevo dicessi X, così ti freghiamo un punto. Certo. Due. Bologna Inter. Due. Chievo Napoli. Io dico X. Anch'io dico X, ma come si fa adesso? Dai, allora io dico due, dai, dico due, sennò... No, devo dire X. Va bene, dico X. Non si cambia, non si può cambiare, come a scopa, quando cagli la carta la puoi ritirare. Vabbè, dai, dico due io allora, dai. Dice due Pardo, va bene, pescare... No, diciamo X tutti e due. X tutti e due, dai. Guarda che poi Giorgio fa... Dai che dobbiamo andare avanti, dai che dobbiamo andare avanti. Dai che c'è il GR. Pescare Genoa. X. Udinese Sassuolo. X. X. Roma Torino. Uno. Uno. Milan Fiorentina. X. X. Facciamo i conti, facciamo i conti a giochi fatti. Ciao a tutti. Ciao Pierluigi. Ciao, Pier. State lì invece voi, non vi muovete. Tutti convocati. Tutti convocati. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. Ricominciamo tutti ai vostri posti! Tutti convocati. Triangolazione, Baggio, Baggio che converge, Baggio, Baggio, finta di Baggio, tira! Grandissimo gol di Baggio! Cerca Roberto Baggio, che però è marcatissimo da Jankov, si fa vedere, Roberto si gira bene, converge, la palla è sul destro e c'è un grandissimo gol da parte di Roberto Baggio. Ecco Roberto. Alto, il campionato del mondo è finito, lo vince il Brasile. Ripiegamento Marchioni, pallone per Baggio, al limite Baggio, cerca il numero, Baggio, Baggio, il tiro, rete, rete Baggio, e sono 200. La cosa che mi ha emozionato di più nella mia ultima partita è stato sicuramente l'applauso che mi ha regalato San Siro, per cui sono stato completamente pieno, e l'applauso e l'affetto di tutta la gente che era allo stadio, è la cosa più bella in assoluto. Allora, non sono un grande fan delle celebrazioni, sarà perché sono nato in un giorno che normalmente non esiste, però in questo caso l'occasione è troppo importante, tre compleanni molto ravvicinati, domani quello di Baggio, cinquantenne, diventerà cinquantenne, c'è stato quello di Valentino Rossi, 38enne, e oggi è il compleanno di Michael Jordan, uno dei miei idoli di sempre, anche Renzo Olivieri è un allenatore, non posso definirlo un idolo, ma è un personaggio che mi piace molto ed è in collegamento con noi. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. C'è Giovanni Capuano qui con me, e con lei ha giocato la stagione che gli è valsa il mondiale a Bologna, 30 partite, 22 gol. Roberto Baggio. Sì. Solo che io sono passato alla storia per quello che non faceva giocare Roberto Baggio, c'è una qualche contraddizione, qualcuno crede si dimentichi qualcosa, sì. Ma è una battuta la mia. Perché è passata la storia di quello che non lo faceva giocare, scusi, non ricordo bene. Ma era nell'occasione della partita con la Juve, nell'occasione della trasferta a Milano, mm. partita dalla panchina nel secondo tempo, con la Juve non giocò, andò via fra l'altro, quindi il secondo tempo non potete entrare. Però poi sempre giocato, sono presenze, credo che sia il record di presenze, il record di minuti giocati in quell'anno. Alla ma era complicato il rapporto con uno come lui in uno spogliatoio come quello del Bologna o no? Ma no, c'è stata una difficoltà, ma non di inserimento. La squadra dove il grande campione non c'era, arrivò all'improvviso, a noi cambiò tutto il panorama. Voglio dire, uscivamo dall'albergo del ritiro, andavamo al campo d'allenamento tranquillamente e nessuno ci guardava, erano villeggianti. Così arrivò Baggio, bisognava andare con i carabinieri, e avevamo bisogno della scorta. Vuol dire un paesaggio totalmente cambiato per i miei giocatori che non erano abituati. I primi mesi fu un problema, ecco, sembrava di essere in un grande club, invece era il club solito dove è arrivato un grande campione. I miei un po' faticarono da questo punto di vista. Ricordo un po' la storia di Maradona, no? Quindi gliela facciamo la domanda a Renzo Rivieri. Mettiamo che lei fosse allenatore del Bologna, gioca prima di una partita importante, invita Baggio in spogliatoio a parlare con i suoi giocatori. Ovviamente ha usato un largo giro per chiederle un parere sulla presenza di Maradona nello spogliatoio del Napoli 10 minuti prima della partita con Real. Ma non lo so, questo bisogna vedere. Noi facevamo una partita sempre con Bologna a Torino con la Juve e nello spogliatoio venne a salutare Gianni Agnelli, insomma, che è una presenza di prestigio, tutto quello che si vuole, però un quarto d'ora prima avremo bisogno di altre cose. Ha rotto le scatole Agnelli. No, fra l'altro la figura spazia, sapeva trovare lo spirito in qualsiasi momento, figurarsi. Però dico, ci sono dei momenti che sono solo anche della momenti squadra. Di concentrazione, sono solo della squadra. Poi oggi è tutto cambiato, anche da questo punto di vista. Il calciatore riesce a trovare concentrazione anche all'ultimo momento. Io ho avuto qualche grande calciatore proprio che aveva questa caratteristica, qualche altro che doveva prepararsi dal venerdì alla concentrazione, varia dal giocatore al giocatore. Certo, e a proposito, da presidente dell'associazione allenatori, questa querela, questo scazzo tra De Laurentiis e Sarri, come lo interpreta? Ma lo interpreto che così, se c'è da parlare tra presidente e allenatore, insomma, sarebbe bene parlare una sera a cena, ecco, o in un qualsiasi altro momento piuttosto che esternazioni pubbliche. Ci sta anche che l'allenatore una volta si lasci scappare una cosa e qualche presidente si lasci scappare anche lui. Io credo che sia più utile parlarne serenamente, non dopo la partita. A me quando è capitato di parlare dopo una partita con qualche presidente, una volta sono stato anche deferito perché insomma dobbiamo andare a quel paese che non è perché non è, possiamo dirlo che mediamente i presidenti capiscono poco senza fare nomi no, quando entrano in cose tecniche dico poi il calcio diventa anche semplice, quindi non è vero nemmeno questo che un presidente voglia parlare, voglia delle azioni dall'allenatore, a me questo credo che sia anche normale. Io ripeto, lo spogliatoio mio l'ho sempre tenuto aperto per i presidenti, insomma è il datore di lavoro, può entrare quando vuole, l'unica cosa è che ascolta, ecco, questo sì. Se ci sono due parole da dire si dicono, ma devono essere codificate, forza ragazzi, ecco, dopo il posto ragazzi la cosa del Bastidì, poi parla l'allenatore, ecco, ma come è stabilito e come succede sempre, Come va a finire il 6 marzo, Olivieri? Elezioni Federcalcio, lei si è schierato per Tavecchio, poi le chiedo anche perché 2 anni e mezzo fa invece aveva fatto la scelta diversa. Ma allora, 2 anni e mezzo fa avevamo un candidato in funzione delle componenti tecniche, si è messo Albertini, pareva ovvio votare per Albertini, abbiamo cercato di convincerne altri, anche a Modi, che fino all'ultimo momento aveva garantito il suo appoggio, poi la sera prima a mezzanotte arrivò a parlare con i delegati da noi, e si guardato, ho cambiato parte, andò dall'altra parte. Noi ci siamo schierati con il candidato della Lega Nazionale di Dilettanti. Noi abbiamo avuto un periodo lunghissimo di scontri anche duri che ci hanno portato a situazioni molto complesse da questo punto di vista. E questa volta non avendo un candidato che è espressione delle componenti tecniche e comunque sono due candidati delle leghe, abbiamo scelto di dare appoggio a quella lega che sul territorio ha più numero di squadre, quindi i nostri allenatori, poi la parte più debole dei nostri associati sono gli allenatori dilettanti. Avete più allenatori tra i dilettanti che in Serie A e in Serie B? Ne abbiamo 16.000 fra i dilettanti, gli associati tra i dilettanti, quindi 16.500. Un occhio di riguardo, io credo averlo dato a loro, credo che sia stata una scelta importante. Ma me lo dà un voto a Tavecchio di questi 2 anni e mezzo, perché poi lei in realtà è stato spesso molto critico e non ha mai fatto grossi problemi a dire le cose come le pensa. No, mai, io, mai nella carriera in realtà. Sì, ma ci mancherebbe. Io nella competizione Albertini-Tavecchio ero per Albertini, quindi quella che è stata la campagna elettorale è stata la campagna elettorale. Finita la campagna elettorale, o Tavecchio o qualsiasi altro è diventato il presidente della mia federazione. Questo per comportamento istituzionale, me ne sono fatto così e faccio così. Poi che Tavecchio sia migliorato in questi 2 anni e mezzo di gestione della federazione, abbia fatto buone cose, questo è anche un altro discorso. Per cui, ma ripeto, l'appoggio nostro è andato a un candidato, a parte che ha dato garanzie nei confronti degli allenatori dilettanti, nei confronti di tutto il sistema, e si è impegnato in modo serio su questo, e l'abbiamo dato al candidato proposto da una componente con la quale da un paio d'anni abbiamo cominciato a ristabilire rapporti che dobbiamo portare avanti, che dobbiamo migliorare nell'interesse nostro, nell'interesse loro, ma alla fine poi nell'interesse del sistema. Benissimo, grazie mister. Grazie, Renzo. Arrivederci. Io parlo con Sandro La Provincia di Pistoia, poi cambio rapidamente argomento passando ad un altro compleanno. Sandro, buongiorno. Buongiorno a voi tutti e grazie a lei. Allora, 2 domande sulla Fiorentina. Uno, come avete visto la partita di ieri sera, a mio parere un po' troppo sempre sulle giocate individuali, e poi su come vedete Bernardeschi e Chiesa come possibile cessazioni per il prossimo anno. Come possibile, scusi? Cessazioni per il prossimo anno. Cessioni? Da vendere. Da vendere, sì. Ma io mi auguro di no. No, ma anch'io. Ma anche lei per primo deve augurarsi di no, perché... Allora, credo su Chiesa non ci siano dubbi, nel senso che è all'inizio del percorso, e conviene a tutti, folli, a lui per primo proseguire in una realtà bella come Firenze. Su Bernardeschi a me piace anche un po' provare a immaginare che Bernardeschi, così come Donnarumma, diventino i simboli dei club in cui sono calcisticamente nati, quindi poi, Bernardeschi deve restare anni, a Firenze appena compiuti tra sì, gli non è più giovanissimo perché no, non è più giovanissimo. 23 anni calcisticamente gli parlando ha fatto a essere un gol che ha rapito gli occhi e i cuori, ha fatto un gol da fantascienza, ha questi colpi, deve migliorare come continuità. Poi io capisco la lingua feroce dei fiorentini, però Giovanni, criticare la squadra, giocate individuali dopo che hai vinto 1-0 sì, in Germania sul campo del Gladbach, mi sembra eccessivo. Io credo di aver capito cosa diceva l'amico da Pistoia, sì, però. È stata una partita che è girata su tanti episodi, e questa volta è girata bene la Fiorentina. Ieri diceva Paolo Sosa, la vigilia, chi vince questa eliminatoria è una squadra che può arrivare fino alla finale. Ecco, io ho l'impressione, mentre sulla Roma io credo davvero che non ci siano in questa Europa League squadre a livello della Roma c'è il Manchester United con cui secondo me la Roma può giocarsela. Ecco, io penso che la Fiorentina sia sotto uno o due gradini. Attenzione, perché la Roma ha un pericoloso imbuto di impegni con i derby di Coppa Italia, la partita con la Juventus. A 9 partite nei prossimi 26 giorni, ci sono la Roma, c'è il Napoli, c'è l'Inter in campionato, c'è il primo derby con la Lazio, ci sono le altre due partite, quelle di ottavi di finale con per fortuna ha risolto questa la pratica Borussia. Allora, altro compleanno già celebrato, quello di Valentino Rossi, che ha detto, lo risentiamo. Tifosamente vecchio. No, dai. No, vabbè, dai. Tanto cosa vuoi fare? È così. Speravo che andassero indietro, ma invece continuano ad andare avanti. Sono forti. È che passano presto. E il problema è che a giudicare dalle prove di Philip Island, concluse nella nota italiana, sembrano sentirsi tutti. Roberto Ungaro, buongiorno. Ciao Carlo, un saluto a tutti. Beh, Vignales con la moto, con la Yamaha, primissimo, 3 decimi a Marquez. Mamma secondo mia. Marquez, terzo Pedrosa, italiani, settimo Dovizioso, ottavo Lorenzo, soltanto 11° Valentino Rossi davanti a Iannone. Che succede? Vale ha dovuto provare tante cose, non è riuscito a fare il tempo, ha lavorato tanto e non si è dichiarato molto soddisfatto. Anche Iannone ha fatto collaudatore e poi lui non ha neanche montato la gomma da tempo, si ritrova così indietro. Guarda, la conferma è che Vignales ha di nuovo martellato, è davanti a tutti, sarà veramente lui il problema numero uno di Marquez. Marquez in parte hanno lavorato per la Honda, hanno risolto un po' di problemi, ma ci ha messo la sua zampata e comunque lui e Vignales sono gli unici a girare in 28. E poi un Pedrosa leggermente ritrovato. Attenzione Folger, novità, è un rookie, debutterà quest'anno, è già andato molto forte in Malesia. Quarto, quinto Craccio, segni che la Honda sta recuperando. Sesto Rins, il compagno di squadra di Iannone, anche lui sorpresa. Le Ducati qui a Phillip Island sono un po' più in difficoltà, mentre invece avevano fatto vedere la voce grossa negli altri test, qui si sono resi conto che non è così facile, la strada non è così spianata. Lorenzo nei primi due giorni grandi difficoltà, poi è risalito un po', ottavo a 8 decimi. E poi via via gli altri. Sì, ma le difficoltà di Rossi, Roberto, voglio ritornare lì. I Rossi sono gli anni che passano e lui ha una cura, la sua medicina è stare con gli sbarbati. Questa è l'unica sua vera medicina. Il ranch, le frequentazioni, lui veramente stare con quei ragazzini lì si motiva, e cioè più che altro ritarda l'avanzare dell'età, del ragionare in modo diverso. Quindi tu dici che sta immagazzinando rabbia? Sì, aspettiamo, non guardiamo questo 12° che ha fatto, è vero che è quasi un secondo, però addirittura Vignales dice non ci credo un Valentino del genere, si sta nascondendo, vedremo, e alla fine quando c'è da fare i conti, Valentino ci sarà, perché con la sua esperienza, l'abbiamo sempre detto, la sua furbizia farà la differenza, e certo che adesso iniziano a essere tanti, perché con Vignales così, l'importante, secondo me il muro in squadra si alzerà da subito, cioè proprio dalla prima gara. Pronti via, muro di Berlino all'interno del box Yamaha, sarà divertente. Con la corrente. Non un muro di quelli veramente. E noi saremo qui a parlarne, The Voice, Roberto. E a commentare. Grazie. Un saluto a tutti voi. C'è un altro signore che ha costruito la sua carriera immagazzinando rabbia e ferocia contro chi gli faceva i dispetti o non lo considerava abbastanza, fin da bambino. Oggi è il suo 54° compleanno. Ultimi 15 secondi, meno uno Chicago, in palleggio per Michael Jordan, che ha spazio, tutti lo aspettano, può essere l'ultima azione della sua carriera NBA. Arresto, tiro, Jordan! Michael Jeffrey Jordan! Beh, questa è leggenda, il canestro contro Utah del sesto titolo di Michael Jordan. Marco Crespi, so che, e io mi associo, vuole festeggiare anche un altro compleanno che non è nessuno nel mio. Ciao Marco. Ma quello, ciao, numero Carlo. 70 di Boscia Tanjevic, maestro di tutti noi, soprattutto tuo, Marco. Sì, partendo da Boscia è un maestro, penso per me assolutamente, ma anche non solo per me, un maestro di vita, perché le sue visioni sul campo da basket vanno ben oltre a quello che può essere un aspetto tecnico e tattico. Sì, io mi ricordo, vabbè, ne ricordo 100.000 dichiarazioni di Boš a Tanjević, quando culo mangia pigiama. è una di quelle che vi io ho visto Tanjević anche allenare i giovani giornalisti, all'epoca di Milano, dopo le partite, quando qualcuno faceva le domande sbagliate, non è che si arrabbiava, però poi si metteva lì e due cosine te le diceva, ti spiegava. Io penso che citando proprio questo episodio a Milano, Boš ha allenato 2 anni, il primo anno soffrendo, venendo criticato, e credo che una delle sue grandezze, che nel momento in cui ha vinto da allenatore non più confermato dopo 10 anni, con Stefanel, Coppa Italia e scudetto, non si è preso nessuna rivincita verbale nelle conferenze stampa, ha solo sottolineato la grandezza della vittoria. Questo credo che sia qualcosa di unico, che tutti abbiamo qualche cosa da ricordare dopo una grande vittoria, lui non lo ha fatto. Senti Marco, a proposito di spogliatoi aperti o chiusi, ne abbiamo parlato a lungo in questi giorni per quel blitz di Maradona allo spogliatoio del Napoli, eccetera eccetera. Phil Jackson racconta, allenatore di Michael Jordan e senza il quale forse non sarebbe stato Michael Jordan quello che abbiamo conosciuto, racconta di questa abitudine che nei Knicks dei primi anni 70 introdusse Red Holtzman, cioè grande casino intorno alla squadra, da ora in avanti gli allenamenti si fanno a porte chiuse. Phil Jackson l'ha reso un assioma in tutta la sua carriera. Tu come la pensi su questo punto? Sugli allenamenti a porte chiuse? Sugli allenamenti a porte chiuse e sul fatto che ci devono essere momenti in cui che siano soltanto della squadra. Allora, sugli allenamenti a porte chiuse credo che dipenda dalla piazza. Alcune volte una squadra vive un legame particolare. Faccio un esempio, per scendere concreto, andare a allenare Siena, fare gli allenamenti porte chiuse vuol dire non capire nulla della città. Sì. Due, penso che Maradona che parla a Madrid prima della partita sia una delle cose più sbagliate e più tristi. Perfetto. Perché credo che Maradona non può aggiungere nulla a una squadra che aveva già una extra motivazione particolare, anzi una cosa triste. Sì. Quindi non, è una cosa inaccettabile che ci siano dei momenti aperti ad altri che non facciano parte della squadra. Non accettabile, che credo un allenatore non deve assolutamente accettare, perché va ad inficiare non solo il suo lavoro, ma anche la produttività, essendo lui l'amministratore delegato di un'azienda, della sua azienda. Un'ultima cosa riguarda la cronaca, ma Kaukenas non si era ritirato? Kaukenas si era ritirato, poi ci sono i motivi per cui è tornato a giocare a Reggio Emilia. Direi che Kaukenas ha fatto dei canestri importanti. Vado un po' controcorrente: durante lo sviluppo dei 40 minuti sicuramente non era stato brillante. No, non era stato brillante, però Reggio Emilia comunque passa il turno in capo d'Orlando. Milano soffre come una bestia contro Meo Sacchetti, che è un allenatore che storicamente fa soffrire Milano, caro Marco. Fa soffrire Milano anche perché chi gioca da sfidante ha il pallone più leggero, e devo dire che Milano troppe volte sa come complicarsi la vita. Milano gioca sempre con la palla medica in Italia. La palla medica, sì, anche in Europa. verissimo. Ciao Marco, grazie. Ok, ciao. Un abbraccio a Marco Crespi. Giovanni, ci vediamo domenica. Ci sentiamo domenica, 17-19. 17-19, tutti convocati, weekend. Oggi hanno chiamato in tanti, li richiamiamo domenica. Se sono d'accordo, li ricontattiamo. Tutti in blocco, 800-24-0024, oggi e anche domenica. Grazie Giorgio De Luca, nostro autore, Gianmarco Ferronato in regia, Edoardo Lavezzani in redazione. Ciao.